Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno, state ascoltando Restiamo Animali, una trasmissione che aiuta a vivere, pensare e agire cruelty free per costruire una società non violenta. Questa è la puntata numero 461 nella quale parleremo di società marine, caccia all'uomo e lavori bestiali. Speriamo di avervi incuriositi. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Dedichiamo questa puntata ai 134 attivisti francesi, svizzeri, italiani e belgi che hanno partecipato all'ultimo blitz organizzato dall'associazione 269 Libération Animale. Nella notte tra il 20 e il 21 novembre, alle ore 2 sono entrati nel mattatoio Bell, uno dei più grandi della Svizzera. Hanno raggiunto il braccio della morte e lo hanno bloccato per ore finché è cominciata l'evacuazione forzata da parte delle forze di polizia. Dopo 14 ore, non riuscendo ancora ad evacuare tutti gli attivisti, la polizia ha lanciato gas lacrimogeni nei corridoi della morte. Bell Food Group si definisce una delle aziende leader in Europa nella lavorazione della carne e dei prodotti convenience. Circa 12.000 dipendenti generano un fatturato annuo di 4 miliardi di franchi svizzeri. Il mattatoio è stato paralizzato per ore durante le quali le vittime non sono state spinte nei corridoi della morte. I camion sono stati costretti a tornare indietro, 70 impiegati sono tornati a casa e il gruppo Bell ha affermato di aver perso molti soldi. È stata questa una ribellione certamente non violenta, ma altrettanto certamente non priva di conseguenze dannose per l'azienda Bell Food. Gli attivisti e le attiviste però hanno agito consapevolmente e adesso dovranno rispondere di vari capi di imputazione, tra i quali la violazione di domicilio. Ci sono molti modi per opporsi alla reclusione e alla schiavitù animale. Uno è quello delle azioni dirette non violente, come quelle dell'associazione francese 269 Libération Animale. Un altro modo è quello di ispirare i bambini, che sono gli adulti di domani, a un mondo che rifiuti di vedere gli animali come oggetti o proprietà. Lo fa con grande maestria il grafico illustratore Jack Tessaro nei suoi libri per bambini. Uno di questi sarà al centro della rubrica Speriamo che sia vegan di questa settimana. Speriamo che sia vegan. Letture per bambini che amano gli animali. Collage, pezzettini, segni, un tripudio di colori che si intersecano e si stratificano per dare origine a forme e corpi. Sono quelle degli animali che popolano il nuovo libro di Jack Tessaro, autore e illustratore tanto caro ai bambini che ha a suo seguito una lunga collezione di libri dedicati all'infanzia. Rinoceronti, pesci, serpenti, canguri, zebre, balene guizzano, saltano, sembrano quasi voler uscire dalle pagine del libro nel loro anelito alla vita, alla libertà, alla meraviglia delle differenze che sono somiglianze. Quello di Libero Zoo è un inno a questa libertà dai muri, dai confini, dalle gabbie fisiche e mentali, attraverso versi in rima, senza punti, virgole, ma solo con qualche interrogativo, qualche domanda da porre e da porsi. Del resto, come si legge nella quarta di copertina, il mondo delle bestie celebra la vita e la meraviglia delle differenze. Quando lo facciamo prigioniero, si trasforma, muta, si zittisce. Nessuno rimane se stesso quando è prigioniero. E così ha inizio quell'inno alla libertà. Libero Zoo, liberamente, il cuore libero non è sufficiente. Il cuore libero dentro una stanza è ancora poco, non è abbastanza. Dentro a una gabbia non è più vero, non è un leone, è un prigioniero. Le stesse zampe, uguali il muso, non più un leone quando è rinchiuso. Libero zoo, mondo selvaggio, la libertà è sempre in viaggio. Nessun confine, muri o cancelli, la selvatica vita attraversa anche quelli. Libero mondo, di acqua e di cielo, selvaggio amore, di zoccoli e pelo, di bestie contente, di bestie impaurite, vite a milioni, milioni di vite. Il mondo selvaggio del mondo è suo, è un mondo libero e non può essere tuo. Lo si capisce subito, lo si capisce bene, che questo trofeo a nessuno appartiene. Dall'altra parte, dietro la parete, ci sta tutto il resto, quello che non vedete. Il collo, la schiena, le zampe e l'eleganza, è tutto fuori da questa stanza. Ora la bestia è una bestia paziente, di quelle gentili, gentili veramente. Ma il mese prossimo, tra un'ora e un minuto, può essere che si stufi e dica vi saluto. E dica me ne vado, è una noia mortale, non sono mica un quadro che resta sempre uguale. Solleverà le corna, solleverà il divano, solleverà la casa e tutto quanto il piano. Dispiace per il tè, le tazze e le tazzine, peccato per i piatti, di porcellana fine. E fine! I ruggiti, le piume, il salto, e la fame, le zanne, le pinne, le ali, e le squame, il vento, la pioggia, le foglie, e la selva, i belati, gli artigli, la paura, e la belva, molto mosso, agitato, tranquillo, e vivace, il nido, il rifugio, la tana, e la pace. Libero Zoo, di Jack Tessaro, a partire dai 4 anni. Lapis edizioni, 32 pagine, 14,50 €. Knows where cercato quell'ombra dietro la siepe per un cinghiale e ha sparato. Parliamo nuovamente di caccia e ne parliamo per un altro evento luttuoso. Un uomo di 72 anni è morto a Canale Monterano in provincia di Roma, centrato da un colpo esploso da un cacciatore. A quanto è stato ricostruito, il cacciatore 78enne ha sparato da una distanza di circa 150 metri verso una siepe, pensando che dietro ci fosse un cinghiale. Però in quel momento dietro la siepe si trovava una persona che camminava a pochi metri da casa sua. Centrato in pieno a una gamba, la vittima si è accasciata e il cacciatore ha chiamato i soccorsi. Purtroppo non c'è stato nulla da fare e la salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza di Roma. Ancora una vittima umana della caccia, uno sport che noi reputiamo violento e dannoso, uno sport che causa sicuramente infinite vittime nel mondo animale, ma causa anche una militarizzazione dei territori pericolosa, inquinamento nelle campagne e nei boschi e anche un alto numero di vittime umane. Nella stagione venatoria scorsa, quella 2017-2018, registrammo 30 morti per caccia tra cacciatori e non cacciatori. Per informazioni e approfondimento suggeriamo di visitare l'imprescindibile sito internet www.vittimedellacaccia.it. Ascoltatori e alle ascoltatrici dell'Emilia Romagna che non amano la caccia, sarà grato sapere che entro il 14 dicembre è possibile chiedere alla regione il divieto di caccia nel proprio fondo agricolo senza doverlo recintare. Lo prevede il piano faunistico venatorio regionale che ha la durata di 5 anni e che è appena stato approvato. Dunque i proprietari di terreni che non vogliono persone armate che transitino e sparino nelle loro proprietà devono inviare una richiesta alla regione su un modulo specifico entro e non oltre il 14 dicembre 2018. Il modulo può essere scaricato dal sito internet della regione Emilia-Romagna oppure può essere chiesto scrivendo una mail a legambiente.valdenza@libero.it. Troverete questi link pubblicati anche nel nostro blog www.restiamoanimali.it. Magazine di cultura e cucina vegolosi.it abbiamo trovato una notizia che ci sembra interessante e che fa riflettere. C'è una crisi nei macelli della Gran Bretagna. Nessuno vuole fare questo lavoro, quindi si prevede poca carne per Natale. Le riviste di settore e le associazioni lanciano un allarme sulle possibili difficoltà nel far trovare agli inglesi carne a sufficienza per le tavole delle feste. Nessuno vuole lavorare nei macelli e uccidere migliaia di animali ogni giorno. Questa volta a dirlo non sono i temuti vegani, bensì Farmers Weekly, settimanale nato nel 1934, che promuove gli interessi degli allevatori del Regno Unito. A lanciare l'allarme sull'assenza di lavoratori nei macelli sono proprio gli stessi produttori. Sulle pagine del The Guardian, il giornalista Chas Newkay-Barden analizza i dati dal punto di vista dei lavoratori nei macelli. Perché sta succedendo questo? Si chiede il giornalista e la spiegazione è che nessuno vuole fare un lavoro che porta con sé una serie di ripercussioni psicologiche e fisiche. Il lavoro nei macelli porta con sé un terribile tributo emotivo ed è collegato anche ad episodi di violenza domestica, così come all'abuso di alcol e droghe. E chi per mangiare carne è disposto a pagare questo tributo? Nessuno, nessuno è disposto a vedere e sentire che cosa accade davvero dentro i macelli, perché c'è chi lo fa per noi, si delega, almeno finora si è delegato. L'analisi di New Kay Barden su The Guardian sottolinea una questione di tipo politico e sociologico. La maggior parte delle volte gli animali, che sono i soggetti più vulnerabili del mondo, vengono macellati proprio da uomini che rappresentano i soggetti più vulnerabili della società umana. Fast Food Nation, il libro da cui poi è stato tratto il film del 2007, ha ben raccontato come a lavorare nei macelli siano soprattutto immigrati, persone di ceto sociale molto basso che non hanno nessun'altra scelta. Riusciranno gli inglesi ad avere comunque le loro pietanze in tavola? È questa la domanda. La nostra risposta è: speriamo di no. Nel sito Slow Food Slow Fish abbiamo trovato una notizia inquietante. Nei ristoranti di tutto il mondo la carne di squalo viene regolarmente servita spacciandola come pesce bianco o spinarolo. È questa la denuncia del film documentario Shark Water Extinction del regista Bob Stewart, morto l'anno scorso proprio durante alcune riprese in immersione. La troupe ha comunque proseguito il suo lavoro sotto la direzione del direttore della fotografia Will Allen. Il film vuole denunciare e aprire un serio dibattito sull'industria illegale della caccia agli squali, che causa 150 milioni di individui morti ogni anno. Per noi, che ci dichiariamo non violenti e che riteniamo che ogni vita meriti di essere vissuta, è difficile giustificare una sensibilità diversa se a morire è un delfino o uno squalo invece di un tonno o di una sogliola o di un polpo. Da un punto di vista etico, nessun pesce merita di morire per nutrirci, o peggio ancora, di nascere e morire negli allevamenti artificiali. Questa trasmissione è dedicata anche alla sofferenza degli animali acquatici. Cetacei si sono spiaggiati in Nuova Zelanda, fregati dal loro forte senso del branco. C'è infatti un fortissimo senso del branco tipico dei globicefali dietro lo spiaggiamento recente di 140 cetacei di questa specie in Nuova Zelanda. Quando il capo branco perde l'orientamento e si spiaggia, gli altri membri lo seguono. Spiega così quanto accaduto la biologa marina Sabina Airoldi della Onlus Tetis, che studia i cetacei del Mediterraneo. Il globicefalo è un grosso delfino lungo 5-6 metri, pesante una tonnellata, vive in grossi branchi da 40 a 400 individui, guidati da alcuni esemplari di riferimento che in genere sono le femmine anziane. È questa una specie in cui il legame sociale è particolarmente forte, per cui se uno di questi capibranco finisce sulla riva perché ha perso l'orientamento o è malato, gli altri lo seguono. Per questo i globicefali sono i cetacei che si spiaggiano più di frequente in massa. In Nuova Zelanda, spiega ancora Airoldi, c'è poi il fenomeno delle death trap, cioè trappole di morte. Sono delle baie in cui, per le caratteristiche del fondale, il sonar dei globicefali rimbalza in modo anomalo e li manda in confusione. Pensate a un branco di 200 animali che vanno nel panico. Se un capo finisce in acque basse o si spiaggia, gli altri lo seguono. Salvare i globicefali spiaggiati è molto difficile, continua la biologa. Se ne riporti in acqua uno, mentre vai a prendere gli altri, quello torna a riva dai suoi compagni. Bisogna quindi riportarne in mare contemporaneamente un gran numero in modo da riformare il branco. anche l'uomo contribuisce allo spiaggiamento di questi animali con i suoi rumori fortissimi, come ad esempio i sonar militari o le esplosioni per le ricerche petrolifere. Gli air gun, spiega ancora Airoldi, possono stordire i cetacei o lesionare gli organi interni. Così perdono l'orientamento e la corrente li spinge sulle spiagge. Torna la rubrica di cucina non violenta e cruelty free, il pasto gentile, curata dal tosco vegan chef Gabriele Palloni. Ancora una ricetta a tema, quella di oggi, prendete carta e penna per gli appunti, ma se doveste perdervi qualcosa, ritroverete questa e decine di altre ricette nel nostro blog www.restiamoanimali.it, digitando nello spazio per le ricerche il pasto gentile. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Questa puntata, il gancio per la ricetta sono i cetacei. Due sono le cose che mi vengono in mente, Moby Dick e Pinocchio. E da buon toscano vince la seconda. La ricetta di oggi viene proprio dalla terra di Carlo Collodi, nella zona di Pescia, nel Pistoiese. La farinata con le leghe. Ha proprio il sapore dell'atmosfera che si respira nelle pagine del libro. La vedrei bene sul banco di lavoro di Geppetto, accanto alle tre pere di cui Pinocchio finisce per mangiare anche le bucce. Gli ingredienti per 4 persone per la farinata con le leghe sono 100 g di fagioli borlotti secchi, 300 g di cavolo nero, 300 g di farina di mais, una carota, una cipolla, una costola di sedano, salvia e alloro, olio extravergine di oliva, sale e pepe nero. Fate cuocere i fagioli borlotti, che avrete tenuto in ammollo per almeno una notte, in una pentola con abbondante acqua, qualche foglia di salvia e alloro e metà della cipolla tagliata a pezzetti. Fate cuocere a fuoco lento, salando a fine cottura. Nel frattempo sfogliate il cavolo nero privandolo dalla costa, lavate e tagliate a strisce. Queste, chiamate leghe, sono quelle che danno il nome al piatto. A parte, tritate la carota, il sedano e la restante cipolla, fate scottare con poca acqua e quando questa sarà evaporata fate soffriggere con 2 cucchiai di olio extravergine per qualche minuto. A questo punto unite le foglie di cavolo e dopo qualche minuto anche i borlotti scolati, conservando l'acqua di cottura. Aggiustate di sale e pepe, coprite col coperchio e fate stufare a fuoco lento per una decina di minuti. Aggiungete il brodo dei fagioli e fate cuocere ancora 30 minuti a fuoco lento. Infine versate a pioggia la farina di mais, mescolando con un mestolo di legno e fate cuocere sempre a fuoco lento ancora per 30-40 minuti, mescolando affinché la farina di mais non attacchi sul fondo. Servite calda con un bel giro di olio extravergine e una macinata di pepe nero e per dirla alla Hannibal Lecter un bel bicchiere di Chianti. La playlist di oggi è dedicata tutta ai cetacei, le varie declinazioni di Moby Dick ma anche delle orche e in particolare un duo che si chiama proprio Le Orche, ovvero Orcas. È una band formato da 2 autori, Benoît Puloir e il compositore post-minimalista Raphaël Anton Irisarri. Hanno fondato questo progetto e hanno già fatto 2 album insieme. È un genere che per me, tristemente allegro, mi piace molto. In particolare vi propongo un brano che si chiama Until Then, una base minimale, un po' d'anenia e un po' minimalista. Una voce canta. C'è un posto che non ho mai esplorato, un altro mondo che dobbiamo ancora conquistare e fino ad allora nessuno di noi ha nulla. È un pensiero che può essere condiviso da chi fa questa trasmissione da anni e da chi pazientemente l'ascolta. Abbandoniamoci a questo viaggio con Le Orche.